che fai? Non senti il suo profumo nell'aria dell'anima? Perdi. Divina bellezza, meraviglia, io soffro, padre, soffro. Nuovo, stringiti a me, più parlagli tu. Qui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano. Signore, piano, piano. La vita c'è laggiù. Questa è la vita, padre. La vita c'è laggiù. Io soffro, padre, soffro. Qui salvezza la vita, padre. Thank you. senza lumicino con la mer un cammino son più chiare delle divini con il mondo erro grosso muro roccia costinata tua capoccia son venturi delle divini con il mondo dunque passano da tutti barca i monti dagli flutti dalla larga dagli divini con il mondo Woo! Thank you. desta la reggia e desta la città. Siamo pronti ad ogni evento. Se lo straniero vince per le nozze e se gli perde, per seppellimento. Io preparo le nozze lì alle esequie, le rosse lanterne di festa, le bianche lanterne di lutto, gli incensi e le offerte, gli incensi e le offerte, monete di farla, noci moscate, il chino scaldante nel fatto, i ponti che cantano, i ponti che gelano, e tutto quanto il resto secondo il rito minuzioso, minuzioso, infinito. Thank you. stiam qui, a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla Cina la pace ridà, la e il palazzo già fornito la cappella di studi di solar un di più grande culo del vecchio bel già stino di finite già vade di pechino udite trombe alto che pace ma inizia la cerimonia abbiamo quando che uccide che si usplizio Thank you. Amen.

Dimmi il mio nome. Sarna, Sarna, quel nome? Quel nome? La tua serva chiede perdono, ma venire non può. Perché gridi? Lasciatela! vecchio è morta. Oh, vieni, Arrento, le spieremo tutti. L'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. Thank you.

今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.